Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Pedro Armocida per fare un bilancio di questo 2018 cinematografico da gennaio ad oggi e per scoprire i suoi 5 preferiti tra i film usciti in sala quest'anno. Pedro, ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Che ne dici di quest'annata? Io ti ringrazio che ogni anno mi fai partecipare di questa classifica che è ridotta a 5, è sempre un lavoro certo fino, perché in genere la faccio a 10 e poi portarla a 5 è molto difficile. Anche quella a 10 effettivamente poi alla fine nell'anno ci sono parecchi film belli un po' tutti gli anni che ci siamo sentiti e anche quest'anno direi che da questo punto di vista è andata bene. Io poi ho alcune doppiette che non posso mettere nella cinquina, tipo due Spielberg, due Soderbergh, tipo per dire, no? Però anche quello che viene chiamato il cosiddetto cinema del reale, questo documentario, dà tante soddisfazioni e uno vorrebbe metterli anche di più in questa classifica. Sì. Nel complesso che dici della qualità e della quantità? Beh, adesso diciamo la quantità è tanta anche perché c'è il discorso che noi parliamo dei film usciti in sala, ma naturalmente c'è anche poi tutto un mondo, no, legato alle serie TV, ma anche proprio ai film delle varie piattaforme, quindi diciamo al lavoro anche quotidiano di un critico relativo all'uscita in sala si è aggiunto anche un mondo nuovo, ampio, in cui è difficile poi a volte muoversi. Mm. E quindi ecco, l'offerta in questo senso è tanta, però diciamo fare una selezione rispetto anche a quelle uscite in sala da circoscrivere un po' il campo, che se no altrimenti sarebbe veramente molto ampio, con anche in questo mondo globale di audiovisivo ci sono anche tantissime prodotti, film di grande qualità, quindi l'uscita in sala è un criterio, anche se limitativo, però almeno ci aiuta, ecco, in un percorso più facile. Sì. I tuoi preferiti? Nella classifica di 5 ho messo, finché io faccio anche la classifica appunto per Film TV, che prende un range di periodo un po' diverso da novembre a novembre, quindi è un po' più particolare, quindi sono riuscito a mettere il film in qualche modo che direi dell'anno, che diciamo subito è Roma di Alfonso Cuarón, appunto film diciamo straordinario che abbiamo visto in concorso alla Mostra Internazionale Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'Oro, e che come dicevo prima è un film che tocca questo ambito di cui si parla tanto delle piattaforme, perché è un film che è stato acquistato poi per la distribuzione sulla sua piattaforma da Netflix, aprendo poi a un dibattito che forse gli ascoltatori hanno un po' seguito, anche se poi all'esterno del nostro mondo un po' piccolo delle bolle cinematografiche ho visto che non è che appassionasse più di tanto, cioè Netflix come pericolo per il cinema. È un film che è andato anche su Netflix, prima è uscito un po' nelle sale anche italiane, e c'è stato modo di vederlo sia così sia che l'ha visto su Netflix. Diciamo che non sono tra quelli che sosteneva che il film non si poteva vedere su Netflix perché il grande schermo faceva vedere cose che su film piccolo schermo non si vedono, perché comunque molti di noi vedono il film su uno schermo ancora più piccolo di quello televisivo, quindi lasciamo perdere, però effettivamente il film è stato pensato con delle caratteristiche visive, no? Chiaramente Cuarón, che poi non ha mai fatto un film proprio quello televisivo, ci ha pensato con un piccolo schermo, quindi anche Gravity, ma insomma, también, devo dire, è un film proprio pensato per il grande schermo, quindi comunque il fatto che si sia riuscito a vederlo sia su grande schermo, sia se uno vuole rivederlo su Netflix, è comunque una cosa secondo me positiva, ed è positivo perché altrimenti nessuno avrebbe prodotto un film che dura più di due sono almeno in Italia, perché appunto sarebbe stato ritenuto un film difficile. Comunque tante parole per dire che è un film appunto capolavoro, perché riesce a raccontare la storia in qualche modo del Messico per un ampio numero di anni attraverso lo sguardo di una tata, di una donna di servizio, diciamo, dentro una famiglia alto borghese messicana di Città del Messico, Roma, la colonia Roma è uno dei quartieri di Città del Messico. Quindi anche lo spostamento di campo che Cuarón, figlio naturalmente, ha filmato biografico dell'alta borghesia messicana, fa un film sulla sua famiglia dal punto di vista della donna di servizio, e quello che vediamo è straordinario, perché il punto di vista è completamente spostato e questa persona si trova appunto a vivere in questa famiglia, ma a vivere anche le tensioni degli anni 70 in Messico, che vediamo in alcune scene, diciamo, della storia che entra dentro il film, eccezionale, così come tutta la parte di assunzione di consapevolezza di questa donna nella società. È un film sorprendente, però la categoria difficile purtroppo c'è là, nel senso che anche chi l'ha visto su Netflix, dicevo, chi è al di fuori di questa nostra meravigliosa bolla, l'ha ritenuto anche un po' lento, un po' non succede niente, perché è chiaramente un film di diversa fattura rispetto a quello che siamo abituati a vedere, quindi ti fa entrare in un mondo piano piano, però in maniera veramente profonda, come qualche altro titolo che dirò tra poco, okay. Perché mi sto forse troppo fermando su Roma, o sbaglio. Allora, un altro film che direi che ti fa entrare completamente dentro un mondo, allora è il film di Abderrahim Kechiche, Maktoub My Love, canto 1, sì. Che è un altro dei film dell'anno. Anche questo, oddio, anche questo l'avevamo visto a Venezia di due anni fa. E perché dicevo ti fa entrare in un mondo? Perché Kechiche è amato, odiato forse allo stesso modo, però è un film che è sorprendente per come ti porta dentro questo mondo di questi ragazzi in quest'estate così, cui sembra non accadere nulla, ma accade in tutto, e ti sembra quasi di stare insieme a loro. C'è un'immersione totale. Si è parlato molto di questa questione delle inquadrature, anche del di dietro delle ragazze, perché c'è comunque adesso, diciamo, come di un film su Culi, no? Alla Tinto Brass, però questo è un modo per portarti dentro quell'estate che forse non abbiamo vissuto, che abbiamo solo immaginato, che abbiamo sognato in qualche modo, un'estate di una giovinezza eterna. E in questo film poi comunque Kechiche inserisce anche delle cose che sembrerebbero completamente avulse da quel racconto, come la nascita, mi pare, di una capretta. Adesso questo lo ricordo in maniera un po' più sfuggente, comunque inserendo delle immagini che si sembrerebbero prettamente documentarie, questo gioco tra vita reale, vita vissuta, vita sognata, e con alcune delle scene, diciamo, delle sequenze girate in discoteca più belle che abbiano visto, perché si sa in qualche modo che le scene anche in discoteca al cinema sono tra le più difficili da girare e da mettere in scena per fare questioni tecniche di luci, di cose, sì, no, sempre sì, filter false. Invece qui mi sembra tutto molto vero, forse addirittura tutto troppo vero. Poi spezziamo con un italiano, che però neanche tanto italiano è, no? Cioè, sì, e Luca Guadagnino con Chiamami con tuo nome, sì. Dicevo appunto tanto italiano non è, perché Luca Guadagnino gira film pensati, comunque realizzati anche in Italia, come questo che è girato nella sua zona di Crema, dove lui vive, ma chiaramente sia il cast sia l'orizzonte in qualche modo degli eventi è tutto votato a un immaginario anche un po' internazionale, proprio sia per la scelta degli attori che per la scelta del romanzo di Andrea Siman, sceneggiato poi in parte da Ivory, che ha vinto anche l'Oscar per questo. E anche questo devo dire che, almeno su di me, perché appunto parlavo di Kechiche, ma anche Guadagnino è un regista in qualche modo divisivo. Non dico che lo si ama o lo si odia, però naturalmente o lo si abbraccia o un po' uno viene respinto da certe sue poetiche miscescene, diciamo. E invece a me Guadagnino mi trasporta sempre nel suo mondo, e in questo caso anche qui racconta un pezzo di storia anche. Inserendo proprio la storia anche italiana, vengono nominati Craxi, Tanzapartito, in maniera molto, molto, molto interessante. Qualcuno l'ha ritenuto superficiale anche il modo di approcciarsi appunto alla storia che entra in questa storia più piccola d'amore tra due uomini, però invece il modo in cui anche io e Danilo lo vedremo, magari lo vedremo il prossimo anno su Suspiria, tra i film dell'anno, e il suo modo di guardare la storia dentro una cornice che sembrerebbe diversa, secondo me è molto interessante. E anche qui appunto il fatto di raccontare una storia che sembrerebbe anche in qualche modo lontana da certi nostri gusti, ti porta dentro, anche con il mio riesce a portarti assolutamente dentro e con alcune punte assolutamente meravigliose, come il discorso del padre pedagogista del professore, relativo diciamo appunto a un'apertura completa rispetto ai desideri del figlio e a quello, alla felicità appunto, che è la prima cosa da ricercare nell'educazione dei figli. Quindi ecco, anche questo è uno dei film più belli dell'anno. Bene, e siamo a tre. Siamo a tre. Poi, prima dicevo dei due Spielberg che avevo messo nella classifica dei 10, che erano Ready Player One e The Post. A questo punto, dovendo scegliere, così scelgo The Post unicamente perché appunto devo scegliere, li metterei tutti e due perché non so quando sono usciti. The Post, già siamo in 3 su 5 a votarlo, Ah, ecco, allora ho fatto bene forse a mettere questo, a dire eh. questo, invece che Ready Player One, almeno lo portiamo su, appartiene in qualche modo all'aspetto di racconto più classico di Spielberg, anche se appunto Ready Player One è un film classico nel racconto della fantascienza, in qualche modo già fatto Spielberg, ma è un film, come dire, secondo me molto molto contemporaneo e proprio legato a tematiche, si parla naturalmente di videogiochi, ma sta proprio dentro l'oggi. Però Spielberg riesce appunto a raccontare ieri come problema dell'oggi, quindi The Post, che è un film che ci parla dei Pentagon Papers del 1971, ci racconta però naturalmente anche l'importanza e di come viene messa sempre a dura prova il mondo della stampa, del giornalismo rispetto al potere, quindi è naturale che raccontare una storia che in parte già conoscevamo, ed è anche bello questo fatto del cinema americano che racconta la sua storia attraverso i film e alcune volte ti sembra stare in un film che è uno spin-off di un altro, di Watergate, cioè si sta componendo una storia americana attraverso il cinema fatta da registi così grandiosi, quindi anche questo aspetto è molto interessante ed è posto appunto nella cornice classica di un racconto appunto molto classico, racconta quello che oggi è all'ordine del giorno, quindi come il potere cerca di influenzare il giornalismo, perché che sembra strano, sono leggi due giornali anche oggi, no? Si dice non sono leggi giornali, nessuno qua, il giornalismo è su giù, non interessa più nessuno la critica cinematografica pure, però poi quando c'è la critica cinematografica i registi si incavolano col critico, quando c'è un articolo che non piace sul New York Times, che è degli Stati Uniti, si incavola. E quindi forse questa stampa alla fine ancora qualche un ruolo ce l'ha. Qualche ruolo ce l'ha, naturalmente si parla di ruoli di potere, quindi il film non è che nasconde anche una composizione del potere all'interno del giornale tra l'editore e il direttore, cioè appunto chiaramente tutto alla fine è visto positivamente perché si pubblica quello che mette in discussione il governo americano su quello che ha detto sul Vietnam, che sembra poi ripetersi cose come oggi o almeno qualche anno fa sull'Iraq, sulle armi di distruzione di massa e tutte le cose che ci hanno raccontato che poi non si sono verificate, non vere, e quindi è un film che non mette da parte anche il discorso su chi governa un giornale, l'editore, e su questa continua scambio di potere tra il direttore del giornale e l'editore. All'interno di questi confini, però, comunque poi ci sono stati alcuni momenti in cui appunto il giornale hanno fatto la differenza. Tutto questo è il tema del film, ma è appunto raccontato e è messo in scena con la grandezza di Spielberg, che si vede anche in piccole scelte veramente pazzesche. Penso a loro che leggono la mattina il giornale che esce con la notizia e arrivano a fare la presidente che gli porta via tutte le pagine che volano via, anche per indicare un po' questo fatto che i giornali durano un giorno, per qualche ora e poi si buttano e diventavano un tempo il modo per incappare il pesce, ma appunto questo si comprano, no, forse non tanto pesce, tanto, e comunque non il giornale, quindi non si incarta più. E siamo all'ultimo. Siamo all'ultimo, poi ci dobbiamo lasciare, stavo tanto bene con voi. No, l'ultimo mi sembra giusto, a parte che appunto l'ho messo in questa top 10 di cui continuo a parlare, forse non dovrei qui, ma perché parlavamo di cinema del reale, questa definizione che non si riesce a dare del cinema documentario, perché è chiaramente molto cambiato anche come si fa questo tipo di cinema, quindi io parlo sempre solo di film, poi uno deve sempre stare a categorizzare e a definire. Comunque mi faceva piacere inserire un film di questo tipo, perché per esempio recentemente ho visto un film che non è così tanto molto bello, che è Funeralopolis, non so se tu l'hai visto. No. Un film il mondo della droga oggi nell'Interland milanese, una specie di amore tossico di oggi di Alessandro Rivelli. È un film, appunto, Funeralopolis, veramente molto, molto interessante, quello che chiamiamo cinema documentario. Però quello che inserisco è La strada dei Samoni di Stefano Savona, è perché appunto è un film che riesce a raccontare i problemi, cioè la distruzione relativa a una campagna purtroppo organizzata da Israele nella striscia di Gaza piombo fuso di qualche anno fa, e Stefano Savona è stato lì con una famiglia, praticamente con i figli che hanno avuto una famiglia uccisa, decine di persone in questi bombardamenti, e quindi mi sembra che sia un film che riesca a introdurre, amalgamare il dato documentaristico in maniera quasi come se appunto fosse un film di finzione perfetto, anche perché utilizza la finzione delle animazioni per dare una profondità al racconto abbastanza inedita. Le animazioni che occupano, adesso mi pare di ricordare, circa tipo 40 minuti su 2 ore e 10 di durata, sono state curate dal capo disegnatore e illustratore, che è Simone Massi, insieme a un gruppo di circa

è stato selezionato ad un festival importantissimo come quello di Locarno la scorsa estate. L'altro film che volevo citare, vabbè, appartiene un po' al nostro universo più pop, anche se tanto pop non lo è, si chiama Zombie contro Zombie, è chiaramente One Cut of the Dead, un film giapponese che ha incassato di più nella storia, nel senso che è un film che è costato 27.000 euro e ha incassato 30 milioni di euro all'oggi, quindi raramente nel cinema, nella storia del cinema succedono cose di questo tipo. È un film meta cinematografico, assolutamente personalissimo, però che riflette quella che è l'estetica del genere zombie, horror, ma non è assolutamente, non è solo uno zombie movie, non è soltanto un horror, è un'operazione veramente raffinatissima e spero appunto che riusciate a vederlo, se non altro ha avuto chiaramente una distribuzione che abbiamo filmato come Tucker Film, ma presto sarà disponibile sullo spot e mi auguro anche in televisione. Gli altri due film a quota sono arrivata a 4 se non sbaglio, quindi posso citare soltanto uno. Beh, quindi puoi citare Dogman. Ok, sì, assolutamente, credo che Matteo Garrone sia il più grande talento che abbiamo in Italia e quindi non può mancare Dogman nella mia lista. Però per l'altro puoi fare una citazione se non lo puoi mettere tra i cinque, insomma. L'altro è Coco, per cui esce fuori tutta come si potrebbe dire, la volontà di favola che c'è nel cinema del raccontare appunto quello che è un racconto fiabesco e con la dolcezza che è appunto un film come Coco, che è comunque un film d'animazione, ma che è veramente adatto a tutti, dovrebbero vederlo tutti obbligatoriamente. Allora, il primo è un affare di famiglia, se non sbaglio, l'hai messo tra al primo posto. Sì, al primo posto. Al primo posto, e ti dico anche che è tra i miei cinque, è un affare di famiglia, quindi sì. È in buona compagnia. Sì. Bene Sabrina, io ti ringrazio, un abbraccio, auguri e speriamo di risentirci presto. Assolutamente, grazie a te. Tanti auguri a tutti. Ciao. Ciao, ci sentiamo presto, vado a vedere Cold War. Ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie. Con Nicola Falcinella, anche per parlare con lui dell'annata cinematografica 2018 e per sapere quali sono i suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala. Nicola, ben trovato. Ben trovati anche a voi. Ci tocca un compito impegnativo, tirare i bilanci di quest'anno. Sì. Però ogni volta è divertente, poi siamo sempre di più. È divertente, ma proviamo a fare le liste, a scegliere sempre, quest'anno ancora più complicato, c'erano tanti film. Quindi stagione ricca. Sì, direi di sì. Mm-hmm. Nel complesso che dici? Allora, nel complesso è stata appunto una stagione ricca, ma anche varia. Ci sono tanti titoli interessanti e tanti titoli diversi. E poi è stata anche un'annata vivace anche dal punto di vista di festival, delle polemiche, delle cose nuove. Insomma, si è rotta un po' la solita monotonia, cioè non neanche monotonia, però insomma era un po' la stessa cosa che si ripeteva, magari cambiavano i film, c'erano dei film più o meno belli, però andassero a quelli. Invece quest'anno io non ho simpatia per Netflix, devo proprio dirlo, però quantomeno cioè, l'ingresso di Netflix ha portato un po' di dibattito. Non credo che abbia, cioè, appunto, ho detto che non ho simpatia, quindi non credo che abbia portato qualcosa di positivo di per sé, è soltanto un modo in più, non è che apra l'offerta, perché contribuisce poi a chiuderla da altre parti, anzi forse limita anche la curiosità. necessità delle persone, perché le persone si rivolgono lì e prendono quello che c'è, quello che purtroppo gli suggeriscono degli algoritmi. Insomma, la mia visione è un po' pessimista del fatto, sì, che alla fine parliamo di prodotti culturali, però è un po' un cibarsi di quello che già ci piace, un po' come se fossimo animali nella stalla e vedono che ci piace una cosa e ci danno sempre di più quella. Però insomma, nel panorama dei festival, questa cosa qui, con le polemiche di Cannes, di Venezia, insomma, c'è viva città. Bene, bene. E i tuoi 5? Allora, i miei 5 appunto sono un po' a fatica. Puoi fare anche delle menzioni, però, volendo. Così complichiamo ancora di più la cosa, perché io non ho un buon rapporto con le liste, faccio sempre fatica a scegliere. Oggi ti dico 5 film, poi domani te ne darei altri 5, non perché cambi idea, ma perché le differenze sono talmente poche che sì, è più per che un momento vuoi più bene a un film, è così. Però quelli che, e quindi mi baso sulle uscite di quest'anno, che alcuni film li avevo visti nel 2017, ma sono usciti solo adesso. E quindi tra quelli che restano fermi nelle mie preferenze ci sono Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, poi Roma. Se vuoi puoi anche ragionarci sopra, puoi anche sviscerare i motivi, insomma. Beh, Il filo nascosto, che è Paul Thomas Anderson, è forse il maggiore regista americano della sua generazione, per il mio giudizio, e questo film mi sembra un po' un coronamento della sua parabola degli ultimi lavori, ed è un film sull'amore, sul potere, sul manipolarsi, e sulle pieghe nascoste, su tantissime cose, costruito con un'eleganza e una sovrapposizione di stati, tanto per restare nella metafora sartoriale, perché il protagonista è un sarto, e mi sembra un film pienamente riuscito, è un film che qui ci torna, almeno io torno spesso a pensare, e mi sembra uno dei lavori più compiuti di questi anni. Poi Maktoub My Love, canto 1, di Abdelatif Kechiche, anche questo l'avevo visto a Venezia già nel 2017, ed è un altro film fluviale, quasi tutti i film che ho scelto sono così, ed è un film anche qui sull'amore, sulla leggerezza, sull'estate, che Shisho, che è un altro dei miei autori del cuore di adesso, ambienta prima dell'11 settembre, prima di tutte queste cose delle paure dell'altro. Infatti i protagonisti sono dei ragazzi, dei giovani d'origine magrebina nel sud della Francia che flirtano con le ragazze francesi, ed è un film davvero anche eccessivo, ma nel senso positivo, nel senso di pieno di vita. E poi dicevo Roma di Cuarón, che appunto qui entra in gioco Netflix che lo propone. È un film classico e inusuale nello stesso tempo, secondo me, perché riesce a sfuggire a una narrazione usuale, a una psicologia, riesce però a farci parteggiare per le donne protagoniste, riesce a farci stare lì, racconta la società, anche la politica messicana in fondo dal punto di vista di una famiglia, di una casa e di due donne che appartengono a mondi sociali molto diversi. Una è una domestica e l'altra è la padrona di casa. E appunto Cuarón riesce davvero senza sottolineature, senza neanche una narrazione stringente a farci stare lì. E ci sono alcune scene che sono magnifiche: la scena del cinema, la scena del parto e la scena del salvataggio in mare sono da brividi. Anche per come sono costruite, oltre che per le emozioni, per l'uso del sonoro, per il piano in sequenza e così via. Poi un film che per, e questo è davvero per affetto, perché che è Visage Village di Agnès Varda. Sì. Non è sicuramente il mio film suo preferito. Io su Agnès Varda ho fatto un libro e le sono molto affezionato, mi piacciono tantissimo tutti i suoi film, e questo l'ha fatto a 90 anni di età, quasi 79, con il fotografo J.R. ed è un viaggio così, anche qui senza limiti, senza regole per la Francia. Il fotografo che è conosciuto per le sue immagini gigantesche appiccicate sui muri, viaggio con Agnès Varda, hanno 50 anni di differenza, però giocano, scherzano tra loro e scoprono la Francia in modo che è giocoso, ma è anche creativo, vanno ai limiti dell'arte e della libertà, seguendo anche i ricordi di Agnès Varda. E questo film è anche un po' un seguito dei suoi lavori precedenti, come era la sua autobiografia Le Plages d'Agnès, come lo erano in precedenza Le Glaneurs e La Glaneuse, eccetera. E poi un quinto, sono molto combattuto tra un sacco di film, però alla fine scelgo Dogman di Matteo Garrone, perché anche qui, cioè, alla fine ho scelto tutti per affetto, e Matteo Garrone è il mio regista italiano prediletto. Anche qui è un film che forse è stato anche frainteso, nel senso che col fatto di raccontare una vicenda di cronaca si è puntato molto l'attenzione sul fatto di sangue, mentre per Garrone era poco più che un pretesto, la vera storia è quello che è successo. E a Garrone, come già nei film precedenti, invece interessava la relazione tra la vittima e il carnefice, cioè che il carnefice che poi diventa vittima, e questo Marcello, l'uomo che è abituato a subire, e poi a questa reazione e anche le conseguenze, quello che succede dopo, ed è un film che poi si collega anche ai precedenti film di Garrone come Reality, e mi sembra che l'abbia fatto con un lavoro formale molto affinato, molto curato, e appunto che sia un film profondamente umano, profondamente cioè molto toccante. Bene, allora i tuoi 5 ce li hai dati, Nicola, un abbraccio, un in bocca al lupo, e speriamo di vederci in sala, e auguri. Anche a voi auguri, buon anno, a risentirci presto.

Magrelli per fare un bilancio dell'annata cinematografica 2018 e per sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Enrico, ben trovato. Ben trovati a voi e un saluto a tutti naturalmente. Ma il bilancio, diciamo che l'anno 2018 potremmo così, diciamo che ha superato gli esami, anche se non in modo brillantissimo, perché poi, come ormai accade da molti anni a questa parte, dagli Stati Uniti arrivano molti film, secondo me, deludenti, molto proprio da pronto consumo che, utile parole famose, non entreranno mai nella storia del cinema, sicuramente entreranno nella storia dei record di incasso, ma poco altro, insomma. Questa è la mia sensazione. Sì. Mentre rispetto alla cinquina, vabbè, adesso la snoccio non in ordine di preferenza, quindi è una cinquina in ordine sparso, se vogliamo. Quindi metterei Un affare di famiglia, il film di Coreda, il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, poi metterei Roma di Guaron, e poi 2 film italiani che mi sembrano. Devo dire che sono stati molti film interessanti quest'anno, però poi dovendo fare una cinquina, naturalmente uno stringe il campo, Sì. e quindi mi ho voglia di segnalare La terra dell'abbastanza dei fratelli gemelli di Innocenzo, che mi pare che abbiano un talento che potrebbe o ci regalerà nei prossimi anni delle cose molto buone, e poi il film di Garrone, Dogman, che non è entrato nella cinquina degli Oscar, però è entrato in questa cinquina, credo anche di altri colleghi, Sì. e quindi questa è molto più prestigiosa, non la mia, quella dei colleghi, di quella dell'Oscar. Peccato, peccato, perché comunque non era facile, era un'annata in cui sono arrivati circa 90 titoli da tutto il mondo e ci sono dei titoli molto forti, non dico migliori di Dogman, no? Però qualche problema lo potevano dare. Come si vede da questa cinquina, è il cinema che personalmente continua ad interessarmi e a emozionarmi è un cinema che parla di persone reali, immaginate, immaginare quello non conta. È un cinema all'interno del quale gli effetti speciali non hanno quasi, anzi non hanno proprio spazio, mi viene voglia di dire, adesso sto rivedendo l'elenco. E quindi un cinema che è capace ancora di guardarci intorno, di guardare tutti noi spettatori, a seconda della piattaforma o del luogo in cui vogliamo vederli. E questo mi pare che sia ancora un cinema che ha un senso. Senti, se vuoi possiamo anche analizzarli tranquillamente uno per uno, così ci dici le tue ragioni, Enrico. Sì, no. No, volentieri, no, infatti non l'ho fatto perché non volevo essere troppo lungo. Sì. Ma un affare di famiglia è nella cinquina, Anche perché la Coreda mia. sicuramente. Ah, bene, bene, bene. Perché sicuramente Coreda è uno dei registi più vitali in questo momento, in cui riesce a entrare dentro delle dinamiche e facendo un cinema d'autore, in cui però c'è anche una tensione narrativa, una suspense davvero sorprendente, il che mi sembra diciamo, 2 motivi molto interessanti, no? Parlare di un'umanità della quale poi pian piano scopriamo tutto, no? E i colpi di scena non sono i colpi di scena di un marziano che arriva o di un pugno che da fuori campo entra in campo. Il filo nascosto perché Paul Thomas Anderson credo sia il più grande regista in attività da molti anni a questa parte, e racconta, grazie poi a un cast impeccabile e perfetto del protagonista maschile, sapevamo già tutto, lo conoscevamo già da sempre, dalla protagonista femminile, pur avendo una filmografia molto articolata, era pressoché sconosciuta, e rivederla Liefa qualche settimana fa, vestita in modo completamente diverso, con una faccia completamente diversa, è un dato di come poi Paul Thomas Anderson riesce poi a fare delle metamorfosi che dovrebbero essere poi una delle regole nell'abecedario del cinema. Sì. E il filo nascosto racconta un'ossessione, è un melò, e come tutti i melò racconta di un amore questo caso nel film, tanto non vediamo nulla, realizzato ma profondamente malato. La Terra dell'Abbastanza invece ci porta nelle periferie italiane, il cinema italiano forse è saturato dalle periferie, in alcuni casi è saturato in modo molto vitale, interessante, perspicace, sagace, in altri casi mi sembra che sia saturato quasi in modo, cioè una sorta di manierismo pasoliniano. Sì. Nel caso della Terra dell'Abbastanza questo non c'è del manierismo, c'è una grande consapevolezza cinematografica che però non viene esibita, non viene sbattuta in faccia allo spettatore, no? Ma riesce a farsi fotogramma, inquadratura, profondità di campo, a parte un lavoro con gli attori e sugli attori davvero importante. Roma perché riesce, a parte tutta la discussione che si è fatta a Netflix, la sala, lo schermo grande, piccolo, medio, minuscolo, che quindi mi sembra già un dibattito molto vecchio, anche se i nodi e i problemi che le piattaforme stanno ponendo in questo momento sono inediti e sono nuovi. Roma è un affresco incredibile, è un film così personale, così privato, che però ha bisogno, almeno io l'ho visto a Venezia, non ho avuto ancora tempo e modo di rivederlo sullo schermo di casa, questa intimità della memoria che riguarda il regista, riguarda la data di casa, ha bisogno così, no, di un racconto che sia fluviale e anche di una dimensione visiva che probabilmente sul grande schermo ha la sua esaltazione, perché però ho l'impressione che possa funzionare profondamente anche anche su uno schermo più piccolo. Anche lì, guardare al Messico di quegli anni attraverso il tinello, le camere da letto, la cucina, il cortiletto interno, quando fuori c'è la storia con S maiuscola, ed è una storia anche molto drammatica, che però non squilibra il film, no? Rimane esattamente un equilibrio davvero, davvero interessante. The Dogman è un western da cronaca nera, in cui il Garrone torna su dei luoghi che evidentemente per lui sono come una sorta di tela grezza sulla quale può lavorare visivamente, no? da quel pittore che è. Allora anche lì guardare, come hanno fatto i Vincenzo, guardare a un paesaggio reale e riuscire a trasformarlo in racconto, no? Con un'umanità in entrambi questi film, pur essendo film lontanissimi e non comparabili, un'umanità assolutamente stropicciata dalla vita, dalle scelte sbagliate, dalle occasioni mancate, e Matteo Garrone dimostra ancora una volta una potenza visiva che forse soltanto nel nostro cinema ha a Paolo Sorrentino, e quindi i gemelli del gol cinematografico continuano secondo me ad essere loro due. Sì. Ovviamente in panchina ce n'è altri molto interessanti, però aspettiamo che comincino a giocare o che pure abbiano la possibilità di giocare. Bene. Enrico, io ti ringrazio. Oh, ma figurati, grazie a te. È sempre un piacere. E... Ma è sempre un piacere far parte di questa lista di deliranti. Con Federico Pommier per un bilancio dell'annata cinematografica 2018 e per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Federico, ben trovato. Ciao, ben trovato a te, ben trovati a tutti. Allora, che ne dici di quest'annata? Dunque, insomma, è stata un'annata abbastanza interessante. Poi bisogna sempre capire da quale punto di vista fare il bilancio, nel senso che dal punto

vabbè, comunque è ovvio che siano, ma sono tutte due film che parlano della famiglia e che quindi ci riguardano molto, soprattutto a noi, non solo come italiani, ma come spettatori cinematografici. Dare film sulla famiglia sono, e poi sono anche un'opzione, perché Roma è bello perché è costruito tutto intorno a questa incrollabile rassegnazione della protagonista, come si vedrà poi alla fine, la Tata, diciamo, mentre A casa tutti bene è tutto costruito intorno alla forma di disperazione e di rabbia, no? In fondo Roma è la storia di due donne abbandonate, quindi è una storia molto drammatica. A casa tutti bene è la storia di borghesi benestanti, ma è costruita come un ring, come succede spesso ai film italiani, sì. Insomma, da Gemi fino a Scola, no? La famiglia è un posto in cui scoppiano i conflitti, in cui si accendono, diciamo così, le tensioni maggiori, in cui le stesse persone che si vogliono molto bene poi finiscono anzi anche per farsi molto male. Poi la seconda coppia è Dogman e Euforia, sono due film anche qui costruiti su legami tra maschi. Quest'anno è l'anno dell'amica geniale, no? Che gli fa vedere in che maniera molto particolare le donne sono capaci di volersi molto bene e di volersi molto male nello stesso modo, nello stesso tempo. Invece questi due film ti fanno vedere come in fondo invece le opzioni maschili sono più semplici, più lineari, forse più banali, no? Dogman è la storia di una sopraffazione, di uno che si ribella a un abuso. Euforia invece è la storia di due fratelli che potrebbero anche essere degli amici, cercano di starsi vicino senza poi riuscirci fino in fondo, ma insomma fanno una serie di tentativi. E anche qui sono due registi che mi piace moltissimo segnalare, perché secondo me Garrone e La Corina forse sono i due autori più in forma in questo momento in Italia. Sì. Poi ci sono due horror, ecco, questo è un anno in cui secondo me ci sono due horror che sono nettamente al di sopra della media degli horror, che però è un genere che, come sai, è molto prolifico, che sono Hereditary e Quiet Place, e sono due horror molto belli in generale, sono due grandi film, ma soprattutto mi piace segnalarli perché sono tutti e due film costruiti sul suono. Come ha scritto il critico del New Yorker, in Hereditary il suono che mette più paura è questo lo schiocco con la bocca, no? Che si fa, non so, con gli animali, i cavalli. E Quiet Place, per chiunque l'ha visto, sa quanto qualsiasi suono produce horror. Ecco, questo è molto importante secondo me per l'idea di cinema di horror, no? Perché nel senso che ormai gli effetti speciali sono diventati così raffinati e così performanti che è veramente difficile far vedere qualcosa di così sorprendente che fa paura, no? Sì. È tutto così perfetto. Mentre il suono è ancora un territorio abbastanza vergine da questo punto di vista. La capacità che hanno i suoni di colpire con un'intensità concentrata il nostro sistema nervoso, produrre delle emozioni fortissime, quello è un territorio in cui ancora il cinema può lavorare come ha fatto da sempre, no? Scoprendo qualcosa di nuovo. Questi due film secondo me lavorano in questa direzione. Altri due film che mi sono piaciuti molto sono First Reformed e Black Panther. Che cosa hanno in comune? Ecco, sono tutti e due film che immaginano qualcosa che prima non si era mai visto. First Reformed è uno dei più bei film secondo me fatti dal suo autore, per appunto il grande sceneggiatore di Toro Scatenato, c'è addirittura un prete kamikaze, una cosa che non si era mai vista. L'ho trovato un film molto sottovalutato anche a Venezia. Black Panther, come sa chiunque l'ha visto, è un film che immagina addirittura che l'Africa abbia saputo sviluppare una tecnologia, una egemonia, un uso anche, diciamo così, positivo del potere che per tanti secoli è stato nascosto, quindi un rovesciamento completo di quella che è stata in realtà la storia dell'Africa, no? Che è il continente da cui è arrivato la vita, l'uomo, che però è stato il più sfruttato, il più manipolato, il più sottosviluppato, eccetera. Ecco, anche qui ci sono due film che hanno la capacità di ampliare la mia capacità, la mia immaginazione, ecco, semplicemente la mia immaginazione, non solo il gusto, ma l'immaginazione, quindi proponendomi qualcosa che non ero riuscito a pensare, che non è stato raccontato prima e che io stesso non avevo mai pensato. Ultimo è un film invece, per l'appunto, Unsane, ne parlavamo prima, dello stesso regista di Sesso, Bugie e Violette, Steven Soderbergh, che è un thriller, anche questo mi ha messo molta ansia, molto paura, l'idea di come realisticamente si possa finire rinchiusi in un istituto di, come possiamo chiamarlo, di correzione psichiatrica, si chiamava una volta, adesso non so come si chiamano, e soprattutto c'è un'attrice che secondo me nelle ultime stagioni si è dimostrata come una delle più brave, Claire Foy, che mi è piaciuta tantissimo, e secondo me anche questo è un film tra quelli che hanno costruito i momenti di maggiore incandescenza di quest'anno. Nel complesso, l'annata cosa ti è parso? Ma che ti devo dire? Poi lo sai come siamo fatti noi, alla fine ci sembra sempre buona, non lo so, siamo forse di bocca buona, no? Non lo so, però alla fine partiamo dicendo ma quest'anno così eccetera, poi alla fine grazie anche a una Venezia strepitosa, no? Che ha riempito forse di contenuti, di qualità di film, no? Appunto, se penso a Roma, se penso al film di Odiare, ecco, un altro film che ci sarebbe stato se fosse uscito, no? E poi appunto questa cosa, questi due horror che mi hanno, non provavo così paura o non provavo così tradizionalmente paura come quando uno prova paura, quando prova paura le prime volte vedi film di paura, diciamo così, no? Da tantissimo tempo, soprattutto a Quiet Place che ho visto al cinema. Beh, insomma, a un certo punto mi sono, no, guardato intorno e mi sono detto, ma sto provando veramente paura, cioè, e quindi, no, come un misto, come dire, di sollievo, sembra paradossale, ma allo stesso tempo di tensione, no? Cioè, quando sai, che cosa faccio adesso che sto provando così paura, in un modo che non provavo così paura, o comunque tale tensione al cinema? Insomma, ci sono stati film, io credo che il livello sia più o meno medio, no? Forse due anni fa c'era un, mi sembra di ricordare, c'era un livello maggiore, però questi film che ho segnato quest'anno mi hanno risvegliato nel mio sistema nervoso delle sensazioni abbastanza antiche che mi appartenevano come spettatore forse da ragazzo, adolescente, e questo forse è ancora più difficile da un po' più. Molti hanno tirato in ballo la questione Netflix per quanto riguarda un cambiamento anche epocale per quest'annata. Sì, io credo che Netflix sia arrivato al momento giusto per qualcosa che era già nell'aria, nel senso che la divaricazione tra ciò che sono i film e ciò che è il cinema, che è una divaricazione, una crepa che si è aperta, insomma, io ho una certa età, dagli anni 70, adesso è diventata così plateale, insomma, non è detto che chi ama i film ami il cinema. Questa è la verità. Vero. Cioè, tutti vediamo i film, ma ormai le persone che vanno al cinema sono diventate un po' un'elite. È un movimento che è successo già a grandissimi movimenti che hanno avuto lo stesso impatto planetario e culturale. Penso all'opera, penso al jazz, no? Sì. Che adesso sono diventati in realtà, i diamanti sono diventati una punta così estrema, un'avanguardia di appassionati, no? Per il cinema la cosa è un po' diversa perché comunque le nuove tecnologie, io ho davanti a me uno schermo di più 50 pollici, insomma, con un audio buono, da un punto di vista percettivo, dal punto di vista emotivo e sociale il cinema rimane quella cosa in cui uno va senza conoscere altre persone, deposita il suo corpo in un angolo della stanza buia per due ore, si commuove in maniera incredibile insieme a persone che non conosce, si apre la luce e uno è un po' imbarazzato di aver avuto questa intimità, no, emotiva con sconosciuti, poi esci e litighi per il parcheggio, questo è il cinema. No, questa cosa qui, questo momento di intimità provvisoria con sconosciuti, che è molto più importante dal punto di vista sociale e culturale. In Italia è stato decisivo, per esempio, un paese come si sa per ragioni storiche molto frammentato, il cinema nel secondo dopoguerra è stato molto più cementante di quanto sia stato il giornalismo, la televisione, cioè, questa cosa qui per tantissimi motivi oggi è in una situazione di, come dire, obsolescenza. Sono basta andare uno spettacolo delle 10:30, anche a una grande città come Roma, ci sono pochi spettatori, quasi tutti gli altri sono 50 anni, questo è un fatto. Sì. Però il film, no? Il film, tutti, il paragone che faccio spesso, lo faccio lezione e poi chiudo perché sto facendo una lezione. Ma no, è un po' come le ultime parole di Giulio Cesare sono state in greco. No, e lui era latino, no? E ormai Roma dominava il mondo. La stessa cosa succede al cinema. Se tu apri internet, comunque, il linguaggio che viene usato per dare forma alle immagini e ai suoni, campo, controcampo, raccordo sull'asse, primo piano, è lo stesso inventato da Chaplin.